Siamo nello stesso posto ma non ci parliamo. Credimi, calmati. Lei che fuma e vola come un aereo, piano resta. Prendi quello che resta. Guardo fissi i tuoi occhi. Dici che non hai tempo, baby. Che hai una festa, un backstage. Aspetta ancora un altro po', che il vento coprirà gli occhi tuoi. Ora siamo in un roof garden, vedo tutta Roma, a lei tremano le gambe, sa cosa dirò, ehi, ma non è importante, le tue mani sul petto, capirai chi sono solo dopo avermi perso. Troppe cose da dirti, ehi, so che non le vuoi ascoltare, non mi vuoi ascoltare, penso ho perso tempo se ti lascio andare. Sembra di stare persi nell'alto mare, questi bicchieri in mare che sale. Non penso a nulla, rinchiuso dentro un locale che non rispondo più al cellulare. Sai, l'ho scordato dentro il privé, l'ho scordato sì insieme a te. Decolliamo al settimo piano, poi ci scordiamo pure chi siamo. Ma tu aspetta, che il vento coprirà gli occhi tuoi. Ora siamo in un roof garden, vedo tutta Roma, a lei tremano le gambe, sa cosa dirò, ehi, ma non è importante, le tue mani sul petto, capirai chi sono solo dopo avermi perso. Siamo in un roof garden, sette piani, le prestige, vino bianco, scusa se mi ami, ehi, scusa se mi odi, scusa se non vuoi, se non sai cosa vuoi. Volo senza ali, che bel panorama, vedo tutta Roma. Ora siamo in un roof garden, vedo tutta Roma, a lei tremano le gambe, sa cosa dirò. Vedo tutta Roma.